Incontri di Gianfranco Fabi. Queste note di blues di Gary Smith. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Alessandro Maggioni. Buonasera. Alessandro Maggioni, ecco, prima di presentarla, perché il blues? Perché Gary Smith? Perché questo brano? Ma perché il blues, diciamo, un po' una mia passione. Io sono un armonicista dilettante, molto dilettante, quindi sento un po' questa dinamica della passione che c'è nel blues, che cerco di tradurre anche poi anche nella pratica, quindi è un po' un punto di riferimento culturale, ma anche in parte esistenziale. Ecco, perché nella pratica lei è responsabile del consorzio Acri di Milano, il consorzio delle cooperative Acri di Milano, è presidente di Federabitazione Conf Cooperative Nazionali, quindi nella pratica si occupa di fare case e di rappresentare gli interessi soprattutto di chi fa case per motivi sociali, non per motivi speculativi. Sì, esatto. Questa è l'origine della cooperazione di abitanti e quello che cerchiamo anche oggi di fare, pur stando nel mercato, perché questa è un po' stata la modificazione degli anni recenti, sostanzialmente, in cui l'intermediazione pubblica nella concessione di finanziamenti e di aree per la casa si è sempre ridotta, e oggi per fare e per resistere, continuare a fare cooperazione vera con quei criteri di attenzione comunque alle persone che hanno bisogno di casa su diverse fasce, bisogna stare nel mercato anche con una certa professionalità, ma soprattutto con un grande rigore rispetto ai principi ispiratori della cooperazione. Ecco, ci dà un po' una carta d'identità di questo consorzio cooperativo, sì, delle Acri di Milano. Il consorzio cooperativo lavoratori è nato come Acri Casa nel immediato dopoguerra, poi nel 1974 è stato costituito come consorzio cooperative lavoratori, perché l'obiettivo principale era quello di dare casa ai lavoratori, insieme quindi Acri e CISL. Oggi è CCL, promosso dalle Acri e dalla CISL di Milano. Nella sua storia ha realizzato oltre 15.000 alloggi sulla città di Milano e provincia, perché l'altro principio fondativo della cooperazione è il radicamento territoriale. Certo. Una cooperazione che non è radicata sul territorio non è vera cooperazione. Quindi noi, ecco, l'altro principio fondamentale è che da sempre facciamo case se ci sono i soci, quindi la logica che diceva prima lei è appunto molto puntuale, non si fa mai speculazione. La cooperazione vera esiste se c'è un bisogno e se ci sono i soci. Ecco, esistono ancora delle agevolazioni di carattere fiscale, normativo, amministrativo, burocratico, che facilitano appunto questa missione di fare case per i lavoratori? Direi che come c'erano una volta, non più. Nel senso che oggi come oggi fare cooperativa è quasi una sorta di scelta per i soci. I vantaggi ci stanno se si sta in una vera cooperativa, perché sennò alla fine molto spesso è un feticcio dell'immobiliare che poi non genera né buone case né buona cooperazione, perché nella sostanza tutti i benefici fiscali e agevolazioni che c'erano nel passato si sono un po' affievolite. Oggi ci sono altri strumenti, ahimè, di finanza immobiliare che scontano una fiscalità migliore di quella che potrebbe scontare una cooperativa di abitazione. Ecco, comunque la missione è appunto di creare le condizioni perché le persone si mettano insieme per costruire una casa, per realizzare appunto anche questo sogno, poi in fondo poi è realizzabile appunto di avere un'abitazione. Voi offrite anche i contorni giuridici, i contorni normativi per poter realizzare questo obiettivo? Assolutamente sì. Quello che cerchiamo di fare è proprio di promuovere, organizzare, accompagnare i soci. Spesso le iniziative durano anche molti anni, c'è un processo di partecipazione molto forte dei soci nel percorso di costruzione della cooperativa e quindi della casa. Quello che stiamo facendo oggi è anche di sviluppare il post consegna, quindi nella gestione condominiale, nella creazione di servizi all'abitare che possono dare anche un aiuto alle famiglie nella fase anche più si riesce anche a risparmiare con queste. Sì, quando una cooperativa è vera, io questo lo dico in maniera convinta anche spesso con gli amici costruttori con cui abbiamo un rapporto di dialettico molto positivo, quando una cooperativa è vera e fa no profit, perché anche le cooperative di abitazione vere sono no profit, quindi frazionano i puri costi che compongono la voce di costruzione dell'alloggio, i risparmi sono significativamente importanti, anche nell'ordine del 30%, perché comunque non c'è il profitto, cioè quello che può derivare appunto perché in teoria avendo i soci dall'inizio, in pratica avendo i soci dall'inizio, l'unico rischio che i soci devono correre è quello del tempo, quindi ci può essere un tempo più lungo perché quando si partecipa, si sta insieme, si comprendono anche le difficoltà e quindi anche i rischi poi sono tutti più contingentati rispetto a quelli che eventualmente può avere un imprenditore che scommette all'inizio anche con una logica differente. Ecco, il settore dell'edilizia è un settore un po' particolare anche da un punto di vista appunto di qualche infiltrazione che ci potrebbe essere dalla criminalità, dalla mafia, da elementi di interessi particolari. Lei ha partecipato recentemente anche a un convegno sulla criminalità economica, come ci si difende da queste realtà, da questa dimensione? Sì, il nostro settore è un settore opaco, è uno dei settori secondo me più importanti, perché comunque è un settore importante ma anche abbastanza opaco nel suo dispiegarsi di una serie di approssimazioni, perché comunque non è un settore puramente industriale. È chiaro che è anche un settore dove notoriamente il tema dei rapporti tra urbanistica, politica, sappiamo il movimento terra nella cantieristica, il tema delle bonifiche, tutti i fattori che incidono certo. profondamente nel processo realizzativo sono tra quelli più esposti alle potenziali infiltrazioni. Dal nostro punto di vista la logica deve essere proprio quella di un estremo rigore nei propri comportamenti, perché poi ci sono dei principi che già sono degli anticorpi di per sé. Poi, per esempio, noi facciamo gare d'appalto estremamente trasparenti, con la partecipazione dei soci, con un confronto aperto, preliminare, con chi può darci anche informazioni rispetto a una serie di soggetti, e cercando di essere più rigorosi della norma nell'applicazione di una serie di richieste alle imprese a cui concediamo poi gli appalti. Quindi ci possono essere dei momenti appunto dal lato della concessione edilizia fino al lato della costruzione. Nella sua esperienza ha avuto qualche... No, devo dire che noi da questo punto di vista, probabilmente perché si sa anche come ci comportiamo, nel senso che noi abbiamo come primo capitale i soci e come secondo capitale la reputazione. E questi sono i nostri capitali fondamentali. Quindi è già una barriera questa. Sì, e questo probabilmente determina il fatto che una serie di soggetti sanno che con noi perderebbero tempo. Io ho trovato molto istruttivo un po' di anni fa leggere tutti gli atti dell'inchiesta Infinito, e perché mi sono chiesto, no, anche come rappresentante di associazione, cosa si poteva fare, e mi ha molto colpito il fatto che gli andranghettisti, nel momento in cui avvicinavano soggetti politici o imprenditoriali che non davano loro spazio, sostanzialmente li lasciavano perdere. Certo. Ecco. Penso che questo sia il primo punto, cioè avere una sorta di impenetrabilità a alcune relazioni che poi determinano anche il fatto che si comprende che per la criminalità non saremmo dei soggetti affidabili. Ecco, ecco, però uno degli elementi che viene messo in luce dalle ricerche, l'ultima ricerca di Sudo Tagliacarne, è il fatto che tra i principali fattori che non favoriscono la trasparenza e la sicurezza del mercato c'è la scarsa chiarezza di norme e delle leggi, quindi è la scarsa chiarezza con cui anche voi dovete confrontare comunque. Questo è un punto centrale, siamo totalmente d'accordo con questa dizione, perché la farraginosità delle leggi, che nel processo urbanistico edilizio sono una miriade e sono assolutamente spesso da interpretare, l'interpretazione da interpretare, i gradi di giudizio, tutte le questioni che poi sono il problema di questo paese, generano potenzialmente delle scorciatoie per chi le vuole percorrere. Sì, delle occasioni in cui si può cercare appunto di rendere più facile il percorso, però con degli strumenti poco trasparenti e poco legali. Sì, e per chi sta dentro le regole diventa un'ulteriore difficoltà. Ecco, questo è un problema sicuramente non solo milanese, è un problema nazionale, anche sul tema appunto nazionale della realtà della cooperazione. Parleremo nella seconda parte del nostro incontro con Alessandro Maggioni, presidente di Federabitazione Confcooperative. Restate con noi, ci fermiamo un attimo. incontri. Con Gary Smith, con questo blues, riprendiamo il nostro incontro con Alessandro Maggioni. Buonasera a quanti sono rimasti con noi, benvenuti a chi si mette in ascolto adesso. Alessandro Maggioni è responsabile del Consorzio Cooperativa Lavoratori delle Acri di Milano ed è presidente di Federabitazione Conf Cooperativa. Abbiamo parlato della prima parte dell'attività edilizia, di come in questo consorzio negli anni ha costruito 15.000 abitazioni nell'area milanese, dei problemi collegati, dei problemi anche di cui si parla spesso, di una criminalità che cerca in vari aspetti, dal sistema delle tangenti, di cui peraltro a Milano non si è parlato, ma che in altre realtà italiane sicuramente ci sono, alle infiltrazioni in tutto quello che può essere il momento realizzativo, dal movimento terra alla costruzione delle abitazioni. Ecco, un sistema di legalità che certamente ha la sua barriera nella reputazione di chi è committente di questi elementi, ma che in altre realtà ci sono e che deriva, abbiamo detto con Maggioni poco fa, che anche dalla scarsa chiarezza di norme e leggi, che è al primo posto appunto in una recente indagine dell'Istituto Tagliacarne sui fattori che non favoriscono la trasparenza e la sicurezza del mercato. Ecco, come presidente di Conf Cooperative, di Federabitazione, Alessandro Maggioni, la realtà nazionale che diversità ha rispetto alla realtà milanese? Certamente lei è responsabile di Milano, qui dice Milano è meglio, questo lo sappiamo. Questo è ecco, un po' questo vizio. Va da sé, però guardandola da Roma. Ci sono delle differenze sostanziali. Assolutamente sì, questo è un dato oggettivo, tant'è che anche i numeri poi dell'attività lo rappresentano. La Lombardia, come immagino in quasi tutte le realtà associative, e Milano in particolare, determinano un po' i grandi numeri, con poi presenze soprattutto in Emilia Romagna e nel Veneto. Questo è un po' l'assetto complessivo. Al sud si nota una situazione di difficoltà sostanziale, proprio difficoltà proprio nel realizzare la formula cooperativa. Sì, c'è una sorta di sempre perenne attesa di un intervento pubblico come elemento fondativo dell'azione anche cooperativa, fattore pubblico che sul tema della casa sicuramente, e della casa, della prima casa, non ci sarà più, e secondo me è giusto che non sia più così. Dall'altro ci sono dei contesti al contorno in cui il tema della legalità diventa centrale, che comunque frenano una capacità di essere comunque anche attori che stanno sul mercato, promuovono un'azione di un certo tipo, anche perché probabilmente c'è anche un mercato differente. Io penso che ci sia un fattore anche culturale molto forte, quello che percepisco anche nel confronto con le mie realtà delle regioni del centro-sud è che molto spesso si tende sempre a aspettare che ci sia qualcuno che possa agire, no? Nel settore dell'abitazione, certo. Mentre nel settore per esempio dell'agroalimentare nostro, di Conf Cooperativa, nel settore sociale c'è una maggiore imprenditività, sempre correlata ai principi territorialità. Il nostro sconta il fatto che, a fronte della mancanza di finanziamento pubblico ormai conclamata, non ci si riesca a reinventare un ruolo differente. Un ruolo di fai da te che poi si mette insieme per realizzare certe cose, certe iniziative che hanno bisogno appunto di una certa massa critica, indubbiamente. Ecco, in questa prospettiva, la cooperazione, come viene vissuta? Che immagine ha? Ha avuto un periodo di grande successo, forse adesso un po' in secondo piano, anche a livello economico, anche messa un po' sotto accusa sotto alcuni aspetti. Sì, diciamo che le recenti vicende romane, soprattutto romane, non aiutano, perché sono vicende in cui un certo tipo di cooperazione fa scempio dell'idea di cooperazione, è inutile dirlo, questi sono dei soggetti a cui bisognerebbe chiedere i danni, certo. No? Non solo per i crimini che fanno, ma anche per hanno vestito da cooperativa, però dopo all'interno falso. C'è una... Questo però penso che, come dicevamo anche poi nel dibattito che c'è stato qui a Milano, può essere l'occasione anche per ripensare. Noi abbiamo in corso questa fusione tra centrali cooperative, quindi tra Lega Coop, Conf Cooperative e AGC, che è un processo difficile, lento, che però vuol portare da tre centrali ad averne una. Il punto che si sta diventando discriminante è proprio quello su cosa si intende per cooperativa, e questo impatta poi anche nel tema più ampio della legalità, certo. Cioè il rapporto con la politica, il rapporto con l'intermediazione pubblica, e su cui ci sono delle sfumature differenti, perché i modelli cooperativi tra quello di Conf Cooperative e quello di LegaCoop sono abbastanza differenti, quindi anche sulla scala, sulla dimensione. Io sono fiducioso che si riesca ad andare, ma il punto fondamentale è proprio quello di essere estremamente e radicalmente rigorosi a quelli che sono i principi fondativi. Ma questo non è tanto facile, soprattutto quando la cooperazione diventa un po' troppo grande, sì. Soprattutto in certi settori come il commercio, in settori come quello stesso dell'edilizia, sono cooperative che ormai sono delle grandi imprese, e quindi devono in qualche modo rispettare anche quelle che sono le regole delle grandi imprese. Sì, assolutamente. Qui la sfida sta in più nel campo loro, perché noi siamo più piccoli. Certamente. Il nostro settore, le cooperative di abitazione che non sono cooperative di costruzione, perché noi organizziamo appunto utenza, siamo su altri ambiti, e qui è il punto di discussione. In questo senso, secondo me, sta anche una nuova interpretazione del ruolo di rappresentanza. Cioè le associazioni di rappresentanza non dovrebbero essere più delle mere associazioni di rappresentanza di interessi, ma essere delle associazioni di rappresentanza di opportunità, anche di relazione, perché molto spesso noi abbiamo visto nelle nostre esperienze, se si fa vera cooperazione si diventa dei partner di soggetti non solo industriali ma anche finanziari, no? Perché c'è una sorta di simbiosi, sempre radicalmente rispondenti però noi ai nostri principi, senza mai annacquarci dentro una sorta di... Ecco, ma anche la rappresentanza, così come la cooperazione, è un po' in difficoltà in questo momento. I cambiamenti sociali, le tecnologie, la disintermediazione di tante cose mette un po' in crisi la rappresentanza, ma anche quella dei sindacati, anche sì. Quella di Confindustria, anche quella delle imprese, cioè tutto il sistema della rappresentanza può essere rivisto. Secondo lei quali possono essere non tanto i motivi che provocano questo elemento, quanto la possibilità di recuperare gli elementi positivi che ci sono nella rappresentanza e che costituiscono un elemento di dinamica sociale importante? Beh, io penso che il primo fattore sia perché oggi come oggi anche le associazioni di rappresentanza sono accomunate nel grande calderone di soggetti parapolitici che poi utilizzano molto spesso alcuni o molti rappresentanti quel ruolo per accedere a dei benefici a cui la massa non può accedere, quindi certo. Questo tema è molto avvicinato alla politica, no? A questo clima. Quello che secondo me bisogna fare è proprio fare questo passaggio. Io dicevo, bisognerebbe che le associazioni diventino associazioni che da un lato sorvegliano, indirizzano e puniscono, no? Chi non sta a delle regole precise, chiare, che in ogni ambito devono essere sancite. E noi questo lavoro sull'abitazione lo stiamo facendo, vogliamo farlo, perché darci una sorta di autoregolamentazione molto rigorosa, piuttosto perdendo associate, ma avendo quelle che stanno associate molto molto, molto credibili, coerenti. Certo. Dall'altro lato, quando si diceva prima il tema di creare opportunità, bisogna che le associazioni diventino anche un po' creative, guardino a nuovi ambiti, soprattutto elaborino un po' di pensiero, cioè non siano più subalterne a dinamiche di, diciamo, di elemosine che arrivano dalla politica o ad altro, ma provino a delineare anche delle strategie di sviluppo differenti. Questo anche qui, con alcune cose divertenti, lo stiamo facendo. Ecco, noi non solo delle lobby magari inefficaci sotto sì. Molti aspetti, ma anche qualcosa che sia propulsivo proprio all'interno della realtà sociale. Assolutamente. Ecco, ma la cooperazione in questo senso può avere un futuro, per fare una domanda provocatoria molto netta? Io sono un cooperatore, quindi ho una risposta, diciamo, di dovere, che è di sì, ma ho una risposta invece di intima, di convinzione, di passione, come si diceva prima. Come, no, io mi sento anche un po' un cooperatore. Io sono sicuro che la cooperazione dentro un sistema economico democratico come quello che dovrebbe essere il nostro abbia un ruolo importantissimo, che non è antitetico ad altre realtà, ma a mio avviso può essere simbiotico, può essere dialettico, può generare quell'equilibrio e quei contrappesi necessari anche in economia per avere proprio un'economia matura, certo. Ecco, una società matura anche. Ecco, in questa prospettiva può essere anche un elemento di sostegno alle iniziative dei giovani, però forse le leggi andrebbero un po' aggiornate sotto questo punto. Sì, sul tema dei giovani, questo è un punto molto importante, la cooperativa probabilmente è il uno dei primi accessi, e su questo stiamo facendo un po' di lavoro anche con Conf Cooperative, che ha messo in piedi un'associazione che si chiama con i COP-UP, che sono questi spazi per le start-up cooperative, e su questa c'è una grande attenzione, perché effettivamente lo strumento cooperativo, per chi non ha del capitale da mettere, può essere un primo fattore per fare imprese. Poi dopo, se il modello cooperativo è attinente alle finalità per cui si è nati, si sta sul modello cooperativo, se no ci sono state cooperative che si sono anche trasformate poi, certo, in SPA. Certo, che si sono trasformate in SPA. Comunque il modello cooperativo è quello di una solidarietà tra i soci, di una, sì, solidarietà che mette insieme competenze anche diverse e che cerca di sostenere queste competenze anche con strutture comuni, quindi con economicità. Quindi è un modello che alla base ha ancora una sua validità concreta. Forse deve spogliarsi un po' di quelle caratteristiche che diceva anche lei, un po' politiche, che hanno diviso, sì, il passato, le COP rosse, le COP bianche. Io su questo è un punto fondamentale, cioè fare cooperazione oggi vuol dire fare impresa con un portato valoriale più forte, quindi vuol dire essere anche ancora più responsabili, che non può essere dichiarato solo, ma va perseguito. Il tema del rapporto con la politica è un punto nodale, cioè se si fa cooperazione si fa impresa, quindi la politica è un pezzo. Anche perché la politica è un po' in crisi, affidarsi alla politica in questo momento forse è un po' da perdente, ecco, cercare di magari rivitalizzare la politica, cercando appunto di portare questi elementi in una politica che anche questa è molto autoreferenziale, nonostante che debba essere invece qualcosa di contrario, cioè deve nascere un po' dal basso. La cooperazione è qualcosa che nasce dal basso, anche se, sì, va stimolata. Sì. Quindi possiamo sperare, guardando in avanti, che sia un elemento che costitutivo ancora di una dinamica sociale che l'Italia deve ritrovare, sì, in fondo. Sì. Chiudo con una battuta: l'altro giorno ero da una cooperativa che è nata nel 1919, gli ho detto adesso l'obiettivo è il 100 anni al 2019, ho detto ma voi dovete pensare al 3019, questa è un po' la storia dell'esperienza. Ecco, forse pensare a fare delle politiche per chi verrà dopo di noi è qualcosa che è mancato molto spesso nella realtà. Si fanno delle politiche a breve termine, si cerca il consenso a breve termine, ma quello che paga è guardare in avanti, guardare anche molto in avanti per chi verrà dopo di noi, anche se diceva Woody Allen cosa hanno fatto chi verrà dopo di noi per noi. Quindi però noi dobbiamo fare qualcosa per loro, dobbiamo lasciare un paese che sia sicuramente, che sappia valorizzare le potenzialità, soprattutto dei giovani. Sì. Su questo totalmente d'accordo. Possiamo concludere così il nostro incontro guardando appunto alla realtà delle cooperative, alla realtà delle case da costruire, da realizzare, da rispondere appunto ai bisogni delle famiglie. Bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Maggioni, presidente di Federabitazione Conf Cooperative. Grazie anche a Filippo Aureggi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora per quanto resta, buona domenica.